Nancy è la più bella! Tutti la vorrebbero baciare! Veri Bella, la tua scuola di trucco con i consigli più alla moda. Oggi scopriamo la Tattoo Collection. Con il Lip Tattoo scegli la tua fantasia. Avrai labbra bellissime. Avrai labbra bellissime. E con Nail Tattoo unghie perfette. Vuoi essere Veri Bella? Hair Tattoo. E per capelli ancora più luminosi applica l'extension. Che look! Tattoo ed extension collection Veri Bella. Giochi preziosi. Oggi ho una sorpresa Veri Bella per te. La trovi solo nel Super Pasqualone. È l'esclusiva make-up Truss Veri Bella. Ombretti, rossetto, smalto per unghie, per vere make-up artist. Portala sempre con te. Super Pasqualone, dove trovi sempre le sorprese più belle. Passion for fashion. Brad Cats Meow. Molto chic, wow. La sciarpa è una cordina. Occhiali da gattina. La gonna poi diventa tutù. Cambia look come vuoi tu. Sempre alla moda! Dove volano le Wings? Volano in Pasqualina Girl! In ogni Pasqualina trovi sempre una Wings! Bellissima! Wings, dove tutto è magia! Pasqualina Girl! Puoi trovare tantissime altre sorprese! E c'è sempre una Wings! Pasqualina e Jig! A scuola di cucina con Dolce Party! Dolce Party Cake! Con Cake Party decorare le torte è un gioco! Ricopri la torta con pasta di zucchero, con crema o panna! Usa il coltello per decorare e la spatola per spalmare! Scegli il beccuccio che preferisci e con la siringa guarnisci come piace a te! Ecco la mia creazione! Bellissima! Buonissima! Oppure usa gli stencil! Decorare la torta sarà facilissimo! Crea la tua torta! Vai, vieni da me! Ciccio bello va da Toni, vien da te. Lui gattona come un matto, sai perché? Oggi vuole alzarsi in piedi e camminare incontro a te. Adesso Ciccio bello gattona e cammina come un bambino. Trasforma e domina i cieli. Vuoi diventare il signore di Gorm? Wow, il Gorm Voice! Fantastico! Solo in Super Pasqualone trovi il Gorm Voice e la tua voce diventa... Gormica! Sarà più forte! Con Super Pasqualone trovi i tuoi eroi preferiti, Super... Voglio Pasqualina Voice! Veloce e possente! Sono Excavator! La ruspa radiocomandata con le luci! Mi trovi solo in Pasqualina Voice! Giro, ruoto e non mi fermo mai! Pasqualina Voice, quante sorprese! E sempre la ruspa! Pasqualina e Jig! Gormiti un'altra avventura! Il Solar Sailor dei Gormiti è invincibile sulla Terra! Si trasforma e domina i cieli! Tantissimi gli accessori del Beauty Shop Wings Club! Poi sediamoci alla specchiera per mettere a punto un look da fata. Ecco l'accessorio giusto per essere fatalosa come Bloom. Ma che ore sono? Dobbiamo andare! La cucina Wings ci aspetta, con tutto il necessario per preparare deliziosi pranzetti per le nostre amiche. Guarda, c'è anche il forno! Fataloso! Di Mega Garage Elettronico, il divertimento è non-stop! Corri sulle rampe, passa l'autolavaggio, giù dagli scivoli! E prova il tuo motore con il test elettronico. Nuovo da Majorette. Mio marito mi ha regalato la nuova lavatrice Egg e finalmente il bucato non è più un problema. Mio marito invece mi ha regalato il nuovo aspirapolvere folletto. Vedessi come pulisce. Lavatrice Egg, aspirapolvere folletto. Regali per noi donnine di casa. Entrata ad effetto Siamo noi vive. Ci siamo, in siamo, carne ed ossa. Siamo bruscate. In diretta. Ci siamo in diretta. Siamo in diretta. Tornate pimpantissime, insomma. Dopo un mese di lavoro. E tanti di ozio. Ma insomma, quelli di lavoro, il mese di lavoro ha prevalso. Infatti abbiamo iniziato in ritardo di quasi un mese rispetto a tutta la ciurma del Wombat, perché la vita è una merda, lo sappiamo, tocca lavorare e quindi... Però in orario, sempre. In precisissimo orario. Ci facciamo perdonare al minuto quello. La brusca, ragazzi. Ragazzi. È così, siamo almeno per quello, siamo brave, dai. Sì, le maestrine del Wombat sono tornate e dopo una carrellata di pubblicità particolarmente sessista. Io comunque ho preso una decisione per la serata. Voglio diventare il re dei gormiti. Se ogni tanto succede che questa cosa ritorna in trasmissione, riusciamo a rimettere sull'audio, ecco, mi faresti molto felice, Nenia, perché io voglio diventare, da stasera voglio, non sono più Nina, ma sono re dei gormiti. Mi faccio anche l'indirizzo mail nuovo. Io voglio il venditore del folletto alla porta. Quello puoi chiedere a qualcun altro di questa radio, mi hanno detto. Oddio. Insomma, ci risiamo. Dove eravamo rimaste? Eravamo rimaste lì a parlare di linguaggio di genere, sessismi, e allora siamo ritornate su questo argomento per concludere o approfondire o buttare altra carne al fuoco. Sì. Cosa stavi per dire? Non carne, qualcos'altro al fuoco. E quindi eccoci qui. Con questa nuova sigla scintillante. Maurizio. Scusate se è poco. Maurizio. Mi piacerebbe averla anche come sottofondo, ma non ti tedierò abbastanza. Io volevo fare presto. L'entrata ad effetto. Un po' magari. Mi sa mi ero sbagliata, perché stavo per dire cari amici della notte, buonanotte, buonanotte per chi non può dormire, buonanotte per chi non vuol dormire. No, evidentemente avevo sbagliato canale. era un canale diverso. Era un Rai 1, sì, Marzullo. Okay, chissà che un futuro non appaia. Mezzanotte sta. Sto dormendo. Ora vedremo. E sono sveglio. Sì. Io già dormo, sono le 8. Sono le 8, siamo 08. In diretta, giovedì. Ci potrete riascoltare il sabato e la domenica. In replica, scaricare il podcast ogni qualvolta ne abbiate voglia o bisogno. Sul sito wombat.noblogs.org. I nostri social sono twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze. Se ci volete scrivere, la nostra mail è postawombat@insiberia.net. Aspettiamo tra l'altro le foto del Wombat dal mondo, esatto. Che penso si stia un pochettino muovendo in questo periodo, e abbiamo avuto diversi aggiornamenti durante l'estate, se non sbaglio, tipo in Portogallo, forse no, forse era in Danimarca. Sono arrivate, sì, delle informazioni dal Wombat nel mondo, sì, vanno pubblicate, ma ci sono, il Wombat si è spostato, è stato da tante parti. Ebbene, beato lui. Sì, a caldo, al freddo, le ha viste tutte. Tutte quante. Bene, cara la mia bruschetta. Che si fa? Si parte. Cioè, rassegniamoci, nonostante la stanchezza, donne. Nonostante questo clima che cambia, che ci stanca sempre un po', nonostante il sistema immunitario che si stanca facilmente con questi raffreddori primi che, della stagione. Ragazzi, io vi consiglierei, se avete il raffreddore, magari insomma, di lavarvi le mani, di stare un po' a casa, di evitare di toccare gli altri, perché in questi giorni, esatto, ho visto delle cose che mi hanno scatenato proprio la mia, come dire, la mia incapacità al perdono, che già è molto, come dire, forte nel mio carattere. Vedessi a scuola, ci sono i genitori disgraziati che non possono lasciare i figli a casa perché starebbero con nessuno e te le portano. Starebbero con i loro germi, sarebbe sufficiente. Disastrose. 37,3 non è febbre. No, un po' di temperatura, ma il bambino può stare a scuola imbottito di tachipirina. Vabbè. Questo è quanto. Poveri bambini. Sì, no, poveri adulti che lavorano in mezzo ai bambini, anche direi. Ecco. Ma vabbè, iniziamo. Bene, iniziamo, riprendiamo anzi, da dove avevamo lasciato più o meno. Qua una cosa diversa. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato, dicevo, da giugno, quando ci siamo salutati parlando di sessismo linguistico, di differenze troppo marcate o di differenze inesistenti nel vocabolario e nella declinazione nel genere dei nomi. A volte si fa troppo, a volte si fa troppo poco, ma sempre troppo spesso si, come dire, ignora quella che è la parità, come la possiamo chiamare. Noi prima di tutto questo abbiamo parlato del gender, per cui abbiamo fatto un discorso oltre, molto più ampio, molto più corposo. Ora invece è tornato il tempo di rimettere radici e di tornare coi piedi per terra e parlare puramente di grammatica. Lo faremo però con un fantastico PDF. Questa sera siamo scaletta free, noi non abbiamo scaletta, questa sera siamo a piede libero. Sì, primo giorno, già sì. Tanto aver riacceso tutto, schiacciato i bottoni giusti. Visto. Usato la pennina che funziona. Funziona. L'unica che funziona fra tutte quelle che girano per casa e per il salotto. Però mi ci vorrebbe un sottofondo musicale. Perché così non mi torna. Basta chiederlo. Basta, lo vuoi chiederlo. Cantato o musicato? Musicale. Solo... Sì, sì, questa sera. Ah, molto meglio. Ecco qua. Con lo spirito di Maurizio Costanzo, questa sera vi parleremo del Donne e Grammatica di Cecilia Robustelli. È un PDF che trovate gratuitamente, scaricabile su Accademia della Crusca, quindi i nemici, quelliveri.it, e è appunto un PDF ad opera di Cecilia Robustelli, che è una docente di linguistica dell'Università di Modena con fior fior di dottorati in Inghilterra, in America e chi più ne ha più ne metta, che da diversi anni si occupa con la sua associazione che si chiama Giulia, acronimo giornaliste, dell'entrata massiccia del genere femminile e non solo della declinazione, ma proprio del cambiamento in toto dell'aggettivo nel mondo della lingua italiana. Mi piacerebbe però iniziare, che bello questo sottofondo, con l'intervento conclusivo, che è datato, pensate un po', 21 maggio 2013, intervento conclusivo della presentazione di questo PDF appunto sul sito dell'Accademia della Crusca. E inizia così: la ricchezza e la vivacità di commenti suscitati da questo tema dimostra che l'interesse per l'uso di un linguaggio rispettoso dell'identità di genere, questo è il nostro tema fondante, che presenta molti punti di contatto con il dibattito sul linguaggio non sessista degli anni Ottanta, è ancora vivo. Forse, come si sostiene in uno degli interventi, vi si può vedere un indice che la cittadinanza riprende a usare il proprio spirito critico. Alcuni presupposti concettuali risultano ormai accettati e condivisi su tutto quello che il linguaggio, su tutti quello che il linguaggio non è immutabile. Può essere plasmato rispetto alla tradizione in base ai mutamenti della società. È scritto un po' in maniera un po' troppo spunteggiata, ma vabbè. Anche l'ascesa sociale delle donne deve essere riflessa nell'uso della lingua, e fin qua largo quindi alle forme femminili per titoli professionali e ruoli istituzionali di pregio per contribuire all'affermazione di una cultura paritaria nel rispetto delle differenze di genere. Se non sbaglio, pochi giorni fa il comune di Firenze, Antonella Bundu e Dimitri Palagi sono riusciti a finalmente portare avanti la mozione sulla questione di genere. Per cui diciamo che questa puntata si contestualizza un po' anche in quella che è la vita, diciamo, sociale fiorentina. Però noi non ne parleremo perché non si parla troppo di politica. E non solo, la Robustelli continua dicendo che si osserva una maggiore, questo sottofondo mi manda fuori, una maggiore sicurezza sul piano grammaticale. Le incertezze di tipo morfologico, cioè sulla correttezza formale delle nuove formazioni femminili, tipo avvocata, tipo ministra, quelle più famose, sembra dissipata, con l'eccezione per le forme in essa, per le quali si richiedono vere e proprie regole, professoressa, dottoressa, campionessa. E quel che qui dice possiamo dare sono però solo suggerimenti. Usare tranquillamente la forma in essa, appunto già in uso nella nostra lingua, per evitare di costruirne di nuove, preferendo altre strategie di formazione lessicale, come deputata, ministro, sindaca, o l'anteposizione dell'articolo femminile per le forme in e, la giudice, la vigile, e via dicendo. E in questo frangente la Robustelli continua dicendo che si rimanda a un altro articolo interessante, che sono le linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo, pubblicate addirittura, pensate un po', dal Comune di Firenze e dall'Accademia della Crusca, che trovate tranquillamente sul sito, e mi sa avevamo letto qualcosa, sì, un qualcosa po' di tempo sì, fa. C'era già passato. E quindi questa è un po' la nostra introduzione, perché poi tra un pochino cominceremo a parlare del volume in sé, quindi di questo Donne Grammatiche Media, suggerimenti per l'uso dell'italiano. Ma scommetto che tu invece vuoi un po' di musica. Io sempre, sempre. E allora la avrai, sappi che la avrai. Siamo figlie e figli della stessa lotta, altro che bussola, abbiamo proprio perso la rotta. Questa realtà è bigotta, una condotta corrotta non può finire male, come Tristano Isotta, e non chiamarlo buonismo, che in fondo il patriarcato è padre anche del capitalismo. Per il dominio morale della morale cristiana, la lotta non è vana, ma c'è una cosa strana. E dimmi fratello, qual è il maschile di puttana? E non puoi dire a una donna come fare la donna, è mansplaining. Non puoi cercarti una donna da chiamare Madonna. E sulle altre slut shaming, su quanti maschi viene fatto body shaming, su quante donne viene fatto body shaming. Nella parità l'unica verità che si capisce è che il discrimine non lo sa chi non lo subisce. E tornarono le streghe con pozioni da bere a dare una speranza in questo museo delle cere. E tornarono le streghe contro queste schiere di inquisitore e inquisitrice ancora più nere. E tornarono le streghe contro tutte le leghe alla ricerca del piacere, ad abbattere barriere. E tornarono le streghe senza più bandiere, ma con la forza del viola e la forza del sapere. E tornarono le streghe con pozioni da bere a dare una speranza in questo museo delle cere. E tornarono le streghe contro queste schiere di inquisitore e inquisitrice ancora più nere. E tornarono le streghe contro tutte le leghe alla ricerca del piacere, ad abbattere barriere. E tornarono le streghe senza più bandiere, ma con la forza del viola e la forza del sapere. Essere maschio e femminista è fatto di istanti, è un percorso di ricadute e di evitamenti, di momenti riflessivi e poi di fughe in avanti, di domande, domande e risposte importanti. Ci hanno costruito con costrutti mentali, i più difficili da distruggere sono i più banali. Il machismo nel rap è figlio del ghetto, lontano da noi, non vedi quanto ci stai stretto. Ci sono uomini legati al ruolo assurdo dell'unico buffissimo principe azzurro. Se lei ti ha lasciato, al limite è una stronza e non una puttana. Hai il cuore spezzato, vuoi vendetta e che fai se la incontri per strada? Il colpevole è sempre chi la violenza la compie. E c'è solo una regola, fratello: mai smettere di farsi domande. Se una donna si fa foto nuda o mentre fa sesso e le manda al suo partner, non è un errore. Lei non è una puttana che si merita la gogna, cazzo. È chi le diffonde a commettere un reato, o almeno speriamo che lo sia presto. Si chiama revenge porn. Gli uomini cercano di educare le donne a non essere stuprate. Gli dicono come vestirsi, come comportarsi, gli orari in cui possono o non possono essere libere di uscire di casa. Forse sarebbe più semplice educare gli uomini a non stuprare. o comunque avrebbe più senso. E tornarono le streghe con pozioni da bere a dare una speranza in questo museo delle cere. E tornarono le streghe contro queste schiere di inquisitori e inquisitrici ancora più nere. E tornarono le streghe contro tutte le leghe alla ricerca del piacere, ad abbattere barriere. E tornarono le streghe senza più bandiere, ma con la forza del viola e la forza del sapere. E tornarono le streghe con pozioni da bere a dare una speranza in questo museo delle cere. E tornarono le streghe contro queste schiere di inquisitori e inquisitrici ancora più nere. E tornarono le streghe contro tutte le leghe alla ricerca del piacere, ad abbattere barriere. E tornarono le streghe senza più bandiere, ma con la forza del viola e la forza del sapere. Sento del movimento dal microfono. Sì, perché sono in una posizione un po' strana. Mi sento il tipo degli Oasis che cantava tipo stando 20 centimetri. Oppure l'Emmy dei Motorhead che cantava tipo col microfono in fronte. Beh, giustamente, insomma. Abbiamo tirato fuori i due o tre personaggi meno sessisti della storia della musica internazionale, probabilmente. E quindi eccoci qua, torniamo al nostro tema donne, grammatiche, media e suggerimenti per l'uso dell'italiano. Allora, possiamo dire che ormai le donne abbiano fatto carriera anche se sono passati quasi 30 anni dal volume delle raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana, scritto da Alma Sabatini, che se non sbaglio è stata anche presidentessa della CEUSCA, e quindi la diffusione anche insomma di quanto scritto all'interno di questo volume, comunque ci sono ancora delle lacune nell'uso che l'informazione soprattutto in Italia fa del genere. E c'è una richiesta molto forte nella società di cambiare questa cultura per fare dell'Italia, come dice la Robustelli, un paese di donne e uomini che siano ovviamente sullo stesso piano, sullo stesso livello. Perché le donne vengono ancora descritte dalla lingua italiana contemporanea e in particolare con l'uso della forma maschile anziché femminile per una parte di titoli professionali, come abbiamo detto. E quindi questa piccola guida, che si chiama appunto, come dicevamo, Donne, Grammatica e Media, è rivolta a questo ambito, diciamo, che merita risonanza ed è anche un momento per riflettere, per fare un'analisi delle più comuni scelte linguistiche che vengono adottate soprattutto dalla stampa per rappresentare la donna. E perché si sa, la lingua non rispecchia solo un movimento, ma può svolgere una funzione molto molto molto più importante, che è quella di rendere visibili e allo stesso tempo contribuire, diciamo, anche ad accelerare in maniera migliorativa la condizione di qualsiasi persona, in questo caso la condizione, diciamo, del gruppo delle donne. E quindi sì, insomma, l'avevamo già detto, ruoli sociali, ma poca diciamo riconoscenza. E facciamo un po' un giretto in questa brossurina e troviamo un po' già alcuni interventi, per esempio da redattore sociale, da Libero, Quotidiano, da Repubblica. E il secondo, dice per esempio Libero Quotidiano, è un frammento, riguarda l'incontro con una chirurga del Niguarda e un maresciallo, e la vicenda è poco chiara. Oppure, Repubblica, Eva Cameiro è il medico sociale del Chelsea, ma è soprattutto la dottoressa più affascinante di tutto il panorama calcistico. Dopo tante richieste da parte dei tifosi, finalmente si racconta davanti ai microfoni di Radio Wombat. Nel calcio bisogna essere donne con gli attributi. Che una cosa terrificante da dire. Certo. A me proprio, io mi sento male quando mi dicono che ho le palle, perché Vabbè. Senza imitare per forza gli uomini, dobbiamo dimostrare che la diversità è una risorsa. Ah, ecco. Si può anche non vivere in funzione di Tom Cruise o per la sottoscritta si può tranquillamente vivere proprio senza Tom Cruise, perché insomma. Ed è questo un atteggiamento, ci dice anche Laura Bustelli, che rivela una concezione ormai stantia della parità di diritti fra uomini e donne, quella che richiedeva un tempo in campo professionale l'omologazione della donna al modello maschile. È abbastanza evidente, no? Cioè la donna con gli attributi. Questo si è visto tanto soprattutto sull'abbigliamento della sì. donna in carriera, no? Vestita certo. da uomo. Vestita da uomo, ma come nella migliore tradizione del film anni 80, non so, tipo Jamie Lee Curtis mi viene in mente, camicia, a volte o cravatta, ma poi minigonna certo. vertiginosa, tacco e calza nera velata. E quindi, insomma, appunto, noi dovremmo essere equiparate, donne e uomini, donne che vengono equiparate al modello maschile nel comportamento, si diceva, nel modo di vestirsi e anche nella, nel modo di esprimersi. E proprio, dice la Robustelli, per raggiungere una parità di fatto, cioè dire l'uguaglianza delle possibilità per ciascun individuo di entrambi i sessi, e per esternalizzarsi appieno in ogni campo, è necessario che la società si liberi dai residui pregiudizi negativi nei confronti delle donne. Io farei un passo più in avanti, non vorrei andare troppo in avanti, ma direi di liberarsi anche del pregiudizio nei confronti della categoria maschile, dell'uomo, perché se vogliamo parlare di parità sessuale, ora esula un po' dal discorso che stiamo facendo, ma se vogliamo parlare di uguaglianza di genere, uomini e donne devono entrambe spogliarsi di questo. Questa serie di cliché e di luoghi comuni. E, anzi, scusate, queste erano le parole di Alma Sabatini, che è stata appunto la prima studiosa italiana a occuparsi di sessismo linguistico all'incirca nella prima metà degli anni Ottanta, proprio quando stava sorgendo, no, la TV privata di Berlusconi con le nostre tanto amate ragazze cin cin che ci hanno accompagnate nella sigla per tanto tempo. E cosa possiamo dirvi ancora? Che in un articolo ormai di un annetto fa, sui nuovi senatori a vita, tre uomini e una donna, la nomina di quest'ultima, Elena Cattaneo, viene dipinta come un'eccezione rispetto a quella di Abbado. Quindi che tra l'altro è anche morto nel frattempo Abbado, quindi è un articolo un po' più vecchio, no? Forse ho, come ieri sera ho detto, ma Robert De Niro non era morto? Ma potrebbero essere morti tutti. Non so bene. Tutti. Piano e Rubbia. La sua scelta sarebbe maturata intorno ad alcuni precisi requisiti, dei quali i primi due sono che è una donna e è giovane. Mentre per quella dei colleghi uomini è valso il principio della seniority, ovvero a parità di autorevolezza conquistata nei vari ambiti. Ed ecco un intervento del Corriere della Sera, che è bellino, Ecco il modello su cui ha fatto base il presidente e che ha portato, dopo qualche mese di approfondimenti e consultazioni incrociate, a far lievitare su parecchie altre le candidature di Abbado, Piano, Rubbia e Cattaneo. Quest'ultima, che con i suoi 51 anni, bah, che gagliarda giovinastra, rappresenta, beh, in confronto agli altri sì, rappresenta la personalità anagraficamente più fresca nella storia di tale carica, è un'eccezione maturata intorno ad alcuni precisi requisiti. Come dicevamo prima, è una donna, è giovane, ha avuto esperienze internazionali, si occupa di problemi scientifici di grande rilievo. È, insomma, una figura premiando la quale, come ha spiegato Napolitano in una nota, quindi è di qualche anno fa, si è inteso dare un forte segno di apprezzamento, incoraggiamento e riferimento per l'impegno sociale di vaste schiere italiane ed italiani, eccetera eccetera eccetera. Quindi la logica è stata quella di premiarne una per incoraggiarne 100, come pare che abbia scherzosamente detto il presidente a qualcuno. Per gli altri cooptati al Senato in questa veste di rilievo istituzionale è valso invece il principio, come dicevamo prima, della seniority. Quindi proprio scritto così un articolo del Corriere della Sera del 31 agosto del 2013. Capito. Insomma, si fa un po' fatica a liberarsi da questa cosa, a riconoscere i nuovi ruoli delle donne, e soprattutto si fa un po' fatica a, come dire, in un in un confronto, no? Tra la carica femminile e la carica maschile a parità di esperienza, si fa un po' fatica a posporre il fatto di essere del genere femminile a quello dell'aver fatto, non so, una grande gavetta, in Parlamento europeo, per dire, no? Chiaro. Prima sei donna, poi hai fatto... E soprattutto viene chiamata signora e non dottoressa. Signora. Signora, certo, signora. Perché... chiaro. Ma la nostra Bertè cosa avrebbe detto? Guarda. Allora io... Che non è morta la Bertè, è viva. Ma è napoletano invece? Come sta messo? No, è vivo. Sì, ok. Sì. No, perché oggi ho parecchi dubbi. È vivo, è vivo. Era così per sapere, non ci volevo mettere in difficoltà. Grazie. Prego. È vivo. Qualcuno scriva postawombat@siberia.net rassicurandoci delle condizioni dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Bene, allora dopo tutte queste cose faccio sentire il pezzo dell'estate, il pezzo, sì, disco nuovo più bello che sia uscito quest'anno. Una, ne ho scelta una a caso perché tanto sono dove vai vai, caschi bene, sì. Quindi boh. Però dopo mi fai sentire la mia hit trash dopo di questa. Va bene, ok. Eppure sono qui, nel suono sto, e crisi che crisi di più non so. Andare dove vado non basta un tram, nella mia testa come Black Afghan. Vittime di noi stessi, sabotati dai nostri complessi. Compressi dalla vita che schiaccia gli eccessi. Complicato essere se stessi, cerchi oro tra le pietre. Trovi sassi, abbassi il livello della sete. Ognuno è quello che si crede. Sono cerchi sull'acqua nel mare della rete. Vedo più lontano, mi libero del suono per capire, guardiamo. Se quello che ci serve ce l'abbiamo, o inventiamo qualcosa che non siamo. Come capita spesso, esce fuori lo stesso, pure se nascondiamo. Ed è un gioco perverso, si gioca all'eccesso, alla fine qualcosa perdiamo. Nella strada dove sto, cerco quello che non ho. Tutto quello che possiedo sparisce, tutto quello che è iniziato finisce. Ed è il destino che ce la imbastisce. Eppure sono qui, come se fosse facile perdere. Eppure sono qui, anche se sempre meno da scegliere. Ma ancora sono qui, come te, mentre cerco di essere. Perché solo qui trovo me, l'avversario da stendere. Eppure sono qui, dove un attimo è tutto. Se tutto sta per essere distrutto, SOS, il mio paese è in lutto. Ma ancora non lo sa, ci si abitua a tutto, anche al brutto. Qua, spenti e contenti, felici e depressi, dipendenti da riflessi che abbagliano, cani che abbagliano. Tanto sono gli altri che sbagliano e mai noi stessi. Persi nell'impersonale e non sappiamo più immaginare. Sintonizzati sulla presa a mare, più scivoli giù e più ti vogliono affondare. Regolare fa parte del piano, omologare chi sono, chi siamo. Azzerare la tua identità e la tua volontà, e così ti ritrovi all'amo. E ogni giorno che passa è veleno in goi. Ogni passo non basta per quel che vuoi, e stai in mezzo ai lupi. E non ci sono eroi in questo mondo di perfetti sconosciuti. A voi su di noi ce lo so, sì. Qua è la conta dei noi, ce lo so, sì. Che ogni giorno fa una botta, una lotta. È sicuro che qualcuno c'è scoppia. Eppure sono qui, come se fosse facile perdere. Eppure sono qui, anche se sempre meno da scegliere. Ma ancora sono qui, come te, mentre cerco di essere. Perché solo qui trovo me, l'avversario da stendere. Eppure sono qui, come se fosse facile perdere. Eppure sono qui, anche se sempre meno da scegliere. Ma ancora sono qui, come te, mentre cerco di essere. Perché solo qui trovo me, l'avversario da stendere. Qui nel suono sto, nel suono sto, qui nel suono sto, nella mia testa come Black Afghan. Qui nel suono sto, nel suono sto, qui nel suono sto, nella mia testa come Black Afghan. Vedo più lontano, mi libero del suono. Vedo più lontano, mi libero del suono. Mi libero del suono, vedo più lontano, mi libero del suono. Per capire guardiamo, tutto quello che è iniziato finisce. ce l'autodedichiamo. Bella. Colle del Frumento. Bellissima come tutto l'album. Eppure siamo qui. Sì, Colle veramente piacevole, bello da sentire e risentire. Io ho ascoltato solo questo tutta l'estate. Sì. Fisso, lo sai, a memoria. Ed esclusivamente nelle tue passeggiate, questo. Nelle tue camminate, esatto. Mattutine hai ascoltato questo. L'unica mia chance musicale estiva è stata questa. Non ho voluto ascoltare nient'altro se non chiaramente i podcast della radio Wombata. Però sì, mi sono dedicata solo a questo album perché ho deciso di ascoltare poco e bene. E quindi hai fatto, sono e andata studiare. Chiaramente a hai cercare loro. Vedi, è stato un anno bello questo che perché gioia. Sì, un po' di gioia musicale. Un po' di gioia musicale. È uscito anche il disco nuovo di Nick Cave che si chiama Agostin. Sì. Ma sì, ho sentito qualcosa, però no, no. Ora continuo ad ascoltare questo dei Colle. Che piglia sono bene. Contenta. Sì. Quell'altro non piglia troppo bene. Sì, esatto. Così. Ok, quindi grazie per questo bellissimo brano. Prego, prego. E noi voi ascoltatori, voi bruschi, ve lo meritate. Bruschetti. Sì, sì, sì. Bruce, bruschetti. Bruce. Bruce. Chiudendo questa parentesi che io ovviamente stavo già disciogliendo nell'acido, praticamente stavo già iniziando a scrivere, a dire un sacco di cazzate. Le scrivo anche, ma in questo caso le dico e basta. Parliamo di queste testate che hanno sempre un sacco di dubbi grammaticali e grafici, no? Allora, pagina mi sembra 34 di questo PDF della Robustelli, c'è un'immaginina piccola, bellissima, dove ci sono tre prime pagine sugli strilli, no? Che vengono appesi fuori dalle edicole, dove c'è il Gazzettino di Padova che dice: lavoro, falsi contratti per clandestini, arrestate, avvocato e segretaria. Il Mattino, oddio, non riesco a leggere. Erano le famose testate. Traffico, esatto. Traffico di clandestini agli arresti, avvocatessa e segretaria. E poi di nuovo un'altra testata, che non capisco qual era. Qual è? È permessi facili in cambio di denaro, avvocata arrestata. Allora decidetevi, avvocato. Hai visto fatto come fa Luca Giurato, buttato sì. le braccia per aria. Avvocato, avvocatessa o avvocata? Usi scombinati che ci regalano i media, lo rifaccio, buongiorno, buongiorno a tutti. Oddio. È necessario riconoscere che l'ingresso delle forme femminili nei linguaggi, soprattutto in quello istituzionale, politico, dell'economia, che ovviamente sono sempre stati ambienti caratterizzati da una presenza maschile piuttosto forte, queste entrate provocano un terremoto morfosintattico, come dice la Robustelli, che è un termine molto bello, che fa traballare le sicurezze linguistiche di chiunque e a maggior ragione di chi opera nella comunicazione pubblica. No, vediamo un attimo insomma, questi strilli molto belli, no? Perché anche chi teoricamente dovrebbe conoscere bene la grammatica italiana ha tutto il diritto di porsi una serie di domande, per esempio. Le nuove forme femminili sono corrette? Si può dire ministra, ingegnera? Esiste il femminile di questore? È per caso questora? È meglio avvocato o avvocatessa? O forse è meglio preferire una combinazione tra tradizione e innovazione, come nelle perifrasi donna più termine di genere maschile? Esempio donna sindaco, donna ingegnere? E qui, su Quotidiano Sanità, il 6 febbraio 2014, una lettrice scrive: gentile direttore, sono molto preoccupata per gli episodi di sessismo, episodi indirizzati da prima verso la donna che ricopre la terza carica dello Stato, poi verso altre parlamentari di schieramenti diversi. Sono preoccupata come donna medico, dice lei stessa, non posso parlare in nome di tutte le donne medico e non sono un unico indistinto, ma scrivo avendo a mente il lavoro e la competenza di tante colleghe, molta esperienza e tanti voti. Quindi, come comportarsi con i termini che indicano ruoli istituzionali riferiti a donne? Qualsiasi ricerca d'aiuto sui siti dell'amministrazione pubblica, compresi quelli dei ministeri, fallisce, con un'unica felice eccezione. Recentemente, però parliamo di qualche anno fa ormai, la presidente della Camera, e quindi la Robustelli qua già ci dà un'indicazione, la presidente della Camera, Laura Boldrini, ha dato un segnale forte di richiesta del genere grammaticale femminile, dicendo che se un giudice chiede di essere chiamata la giudice, se una ministra chiede di essere chiamata la ministra, se una presidente della Camera chiede che sulla carta intestata sia scritto la presidente, è per affermare che la vita ha più di un genere, che non c'è più un'esclusiva maschile per certi lavori. Ops, sì, tutto a posto, sì, sì. Tutto bene. Non c'è più una normalità maschile nella quale tutte noi saremmo, tutti noi saremmo provvisorie eccezioni. Anche il semplice articolo, dunque, ha un'importanza che ai giornalisti chiediamo di considerare. E non vorremmo sentirci rispondere che si usa il maschile perché è il genere largamente prevalente in certe professioni. Nella scuola le maestre e le professoresse sono quasi la totalità del corpo docente insegnante. Eppure nessuno la chiamerebbe la maestra, la professoressa, qualcuno dei pochi docenti uomini. E voi direttori di giornale, voi direttori uomini, che pure siete la maggioranza, giudichereste certo bizzarra l'idea che vi si potesse chiamare direttrici. Tutto questo è stato detto al Convegno Nazionale di Istanbul e Media nel 24 settembre 2013. Poi parleremo anche di Istanbul. È solo questione di abitudine, è solo ed esclusivamente quello. E quello che non ci piace all'orecchio, come si suol dire, è semplicemente una mancanza di familiarità con quel termine. Esatto. Si può dire fabbra. Vado dalla fabbra. E non fabbrezza. Non fabbrezza. Vado dalla fabbra perché devo farmi la copia delle chiavi. Esatto. Quindi, però, ci sono delle proposte operative, no? Ovviamente questa guida è molto, come dire, avanti. E ci sono una serie di le sto cercando per farvi un quadro un pochettino più veloce. Ecco, prendiamo per esempio le forme maschili in tore, sore, quindi questore, professore. E sappiamo che a questi nomi corrisponde la forma femminile etimologica trice. Trice. Moltissime forme in trice sono regolarmente usate oggi in italiano. Attrice, albergatrice, coltivatrice, conduttrice, creatrice, direttrice, decice. L'alta produttività, quindi un suffisso questo ad alta produttività, dovrebbe favorire anche la circolazione di forme meno usate come procuratrice, rettrice, uditrice e redattrice, che per fortuna inizia a sentirsi sempre di più. Eccoli, Nenia, senti. Pastora, tintora, impostora mostrano la forma femminile popolare del suffisso tora, modellata sulla forma maschile tore, che ha permesso la creazione della coppia regolare Tore-Tora. Quindi Tore-Tora, come sappiamo, in italiano è perfettamente utilizzabile. E Sore corrisponde alla forma femminile Itrice. Difendere, difensore, difenditrice, per esempio, no? E, quindi si è creata, no, così una coppia di suffissi regolare Sore-Sora. Aggressore-aggressora. Quindi aggressore-aggressora può anche essere professore-professora. Ma dal punto di vista morfologico, molte forme maschili in sore possono comprendere due forme femminili, non soltanto quindi quella in sora, ma quella più diffusa in itrice, come dicevamo, no? Tipo difensora, difenditrice, no, non è più non è più comune, no, è perché avvocato, difensore, avvocata, difensora, avvocata, difenditrice, un po' forzata come cosa. A me però piacerebbe assessore, assessoressa. È un po' troppo pieno di S, mi sa, assessoressa. Assessoressa. Assassino. Assassina. Ecco. E poi ci sono tutte le nostre nuove forme femminili, quindi ora abbiamo fatto qualche esempio, no? Così di forme regolari ormai standardizzate nell'italiano, quindi in teoria professore e professora dovrebbe già essere una forma standardizzata se seguiamo la regola, non lo è, si dice professoressa e vabbè. Però potremmo ora, questo per esempio... Questo tanto ormai è nel linguaggio, quindi non c'è niente su cui lavorare. È già entrato, esatto, nel linguaggio, cioè è così. È quello. Vedo che tu stai guardando il vocabolario di questo volume. Sì, mi piace tanto. Che, perché non voglio dare niente per scontato. È un vocabolario dove ci sono, diciamo, elencate la maggior parte delle professioni che un tempo erano maschili, che oggi, allargate anche al genere femminile, trovano un loro corrispettivo, ovviamente, nella declinazione o nella neoformazione. Però tu mi avevi promesso una cosa. Mi avevi promesso un pezzo trash. Devi solo dirmi quale. Quello. Questo. Quello, sì, quello, quello. Sentite che roba, ragazzi. Dalle stelle? Alle balle. Sei l'unica donna per me. Quando il sole del mattino ti sveglia. Che vocina. Tu non vuoi lasciarmi andare. Ma lo sapete che ha fatto anche un album dark prog? Ve lo consiglio, andatevelo a cercare perché è un'esperienza. Sì. Ovviamente passerò questo fine settimana a cercare l'album. Puoi passare il fine settimana ad ascoltarlo perché dura una roba tipo 2 ore e 20. Basta con le del fumetto. Basta, solo Alan. Alan, ma chi ti vuole? Mi fidanzo, chi ti piglia? Ascolta al buon vecchio Benigni, perché Benigni è morto. È morto, il vero Benigni è morto. Sì, certo. È come, come Paul McCartney, il vero Paul McCartney è morto, il vero Benigni è morto. Che Morrissey mi fa venire dei grandi dubbi. Porca puttana. Quando siamo insieme noi è triste aprire quella porta. Resterò se vuoi. Io resterò se vuoi. Sei proprio tu. Tu. L'unica donna. Tu. Tu. Io resto non conta se io sono con te. Con te. E allora purtroppo la M è giù per un problema tecnico, ma ci piacerebbe tanto immaginarvi alla guida della vostra macchina sul ponte all'Indiano che sta, mentre urlate questa canzone. Sulle mani. Come hai giurato? E vi assicuriamo che siamo sobrie. Neanche un goccetto di birra. Io eviterei di accostare Alan Sorrenti a Luca Giurato, potrebbe uscire una cosa terrificante. Un uomo, una dieresi su ogni vocale. Che meraviglia. Ah. Questa ci voleva. Ma sai che bella la scena nuova di Joker? Scende dalle scale mentre balla e al posto del pezzo che hanno messo potevano metterci, appunto. Vabbè, non vi voglio spoilerare nemmeno il film, dai. Infatti. Niente. Ah, guarda. Allora, quindi, abbiamo detto. Vecchie forme femminili che sono diventate... Scusate, ho un attacco di sindrome di Tourette per forza dopo aver sentito Alan Sorrenti. Vabbè. E quindi passiamo invece a parlare delle nuove forme femminili. Quindi, Sappiamo che la donna non è ancora riconosciuta la piena possibilità di esercitare professioni di prestigio che fino a ieri erano riservate agli uomini, no? Perché finché si tratta di dire cassiera, cameriera va bene, e quando invece si punta più in alto la situazione cambia parecchio. E sulle nuove parole femminili per nominare le donne, molte di queste tra l'altro erano già usate in passato, dice Loro Bustelli, aleggia la convinzione che ci siano parole brutte, cacofoniche, quindi anche se sappiamo che nella bruttezza e nella cacofonia rappresentano dei parametri linguistici, come dimostrano le centinaia di neologismi che ogni anno entrano nella nostra lingua. Cioè, mi volete dire che omogenitoriale sia una bella frase, una bella parola? Cioè, a livello proprio, come dire, di suono. Il significato va benissimo, quello che però è il suono cyberbullista. Dai. Ma anche cacofonia. Cacofonia è, come dire, insomma, è ormai registrata da secoli. E la Robustelli ha preparato due bellissime tabelle che sono a pagina 42 e 43 di questo PDF che potete, vi ricordo, scaricare gratuitamente, dove vengono elencate una serie di nomi a struttura semplice, quindi formati da una base lessicale e da una desinenza che generalmente è una sola vocale, O, A, e poi termina a struttura complessa, cioè dalla base lessicale normale più un suffisso e una desinenza. Quindi senator e senatrice. E poi segnala alcune eccezioni che non hanno rilevanza su questo sistema delle di formazione delle parole perché sono in numero limitatissimo e quindi si motivano con ragioni di tipo storico e etimologico, tipo la guardia, la guida, la recluta, la sentinella, la spia, la vedetta. E in questo caso l'accordo è sempre al femminile, anche se si tratta di nomi maschili. I nomi invece in A con un referente maschile e di genere grammaticale maschile richiedono appunto l'accordo al maschile. L'eremita, il boia, mai vista una donna boia, però No. Che bello, sarebbe stava più sotto. Sì, il camerata, il gerarca, il monarca, il papa, il papà, il patriarca, il pilota, il pirata. Il pilota no, la pilota, vabbè. E poi ci sono anche nomi in O con referente femminile ma genere grammaticale maschile. Il soprano è stato applaudito. E questo è vero, a volte si può sentire è una soprano, ma la soprana no. La soprana. E in realtà abbiamo ancora qualche cosettina da dire, da raccontarvi. Probabilmente la cosa migliore sarebbe quella che voi intanto vi scaricaste in caso questo PDF, che è una lettura che si fa veramente in un paio d'ore. E poi chissà, magari la settimana prossima riusciamo ad approfondire meglio questo discorso, magari connettendoci anche a altri PDF, altri volumi, altre ricerche che noi faremo durante la settimana. Però volevamo finire un attimo prima per leggervi un piccolo comunicato della rete Kurdistan, viste insomma, i nuovi attacchi sul fronte, che è un fronte ormai, i nuovi attacchi rivolti ad Afrin, rivolti a tutto il popolo curdo da parte della Turchia. E direi di farlo e poi mettere una canzone finale. Ma questo appunto comunicato non è propriamente un comunicato, ma è un articolo appunto su retekurdistan.it che è uscito oggi, dal titolo Boicotta la guerra, boicotta la Turchia. Ora, lungi da noi darvi consigli sugli acquisti, però in questo caso consigli sui non acquisti. Sui non acquisti direi proprio che si può fare. O sconsigli sugli acquisti. Sconsigliamo. I dollari dei turisti e dei partner commerciali finanziano la guerra contro il popolo curdo. La Turchia è classificata al 15° posto nella graduatoria mondiale delle spese militari e gestisce il secondo più grande esercito NATO. L'Italia contribuisce a questa graduatoria come terzo fornitore di armi dopo gli Stati Uniti e la Spagna. Inoltre, grazie ai 6 miliardi di euro stanziati per l'infame accordo UE-Turchia sui profughi, l'Unione Europea non fa che finanziare il riarmo e le pretese egemoniche della Turchia in Medio Oriente. La Turchia, parte integrante della NATO, è tra i principali sostenitori dei tagliagole dell'ISIS, con i quali traffica in petrolio e armi. Mentre immagini idilliache di sole, mare e spiagge delle regioni costiere occidentali del paese vendono l'idea di un paradiso del villeggiante, nelle regioni curde le entrate generate dai turisti stranieri invece vengono investite in cecchini, missili di F-16 e gas lacrimogeni. Vi invitiamo a boicottare la Turchia, paese militarizzato che non garantisce l'incolumità dei turisti, che occupa l'Anatolia curda per distruggere l'identità, cultura e istituzioni, procurando migliaia di morti e prigionieri, tra cui il leader Öcalan, sequestrato in totale isolamento nell'isola carcere di Imrali da 17 anni. Vi invitiamo a boicottare la Turchia per i crimini di guerra commessi ai danni del popolo curdo e degli oppositori. Vi invitiamo a boicottare la Turchia per prendere posizione contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Secondo dati del TÜİK, nel 2012, infatti, c'erano circa 900.000 bambini lavoratori tra i 16 e i 17 anni. Vi invitiamo a boicottare la Turchia anche come meta turistica, perché ogni soldo speso dai turisti stranieri fornisce al governo i mezzi per continuare la sua massiccia campagna di distruzione militare che devasta villaggi, siti architettonici storici e naturalmente, soprattutto, la vita delle persone che vi abitano. Vi invitiamo a boicottare la Turchia per contribuire a fermare la guerra e sostenere la nascita di un paese democratico, rispettoso dei diritti umani e delle minoranze. La lista è: boicottiamo Alitalia, Ariston, Assicurazioni Generali, Barilla Alimentare, Electrolux, Enel Spa, ovviamente, Eni, certamente, Giolitti Roma, Gruppo Coin, Indesit, Iveco, Luxottica, Pirelli, Piaggio, Sapori, Valtur, Bialetti, la Bialetti fa le macchinette in Turchia, Burani, Valentino, Tuo Di Discount, che distribuisce i prodotti Fatina, quindi la frutta secca che spesso in realtà non troviamo solamente al Tuo Di, ma si trova anche alla Coop, Zara, Hugo Boss, Maybelline, Otto, Benetton, Giulietta, che non so cosa sia, Dolce Gabbana e Armani. Ma soprattutto attenzione ai prodotti con il codice a barre 869. Se andate su retekurdistan.it troverete sicuramente questo articolo dal titolo Boicotta la guerra, boicotta la Turchia. Vi ricordiamo che acquistare prodotti turchi significa fomentare per buona parte, finanziare esatto, il governo e quindi finanziare la guerra contro il Kurdistan. Ecco, sapevatelo. Che pippone hai fatto, eh? Hai fatto bene, ci stava. Invece io... Vi ricordate quando a fine puntata si diceva cosa ci sarà questo fine settimana? Ah, aspetta, cerco l'agenda. No, guardo su internet. Abbiamo risolto finalmente tutti i problemi. Esatto! Perché signore e signori, per chi non lo sa bene, questo è giunto il momento di saperlo, è nata La Punta, lapunta.org. È un sito in cui si interfacciano tutte le realtà che fanno serate, eventi e quant'altro. E pubblicano tutto in un unico sito, quindi non sapete che fare, non sapete quando era quel film che vi interessava in quel posto occupato oppure no, eccetera eccetera, andate su lapunta.org, che in primo piano chiaramente quest'oggi ha il banner della fermiamo la guerra, Firenze sta con la rivoluzione del Rojava, l'appuntamento che è stato dato per oggi in Piazza San Marco dalle 18 alle 21, adesso si sta finendo per chi ci ascolta in diretta, e quindi anche questo problema ora te lo dico, scusami, mi si è intrecciato un neurone. Anche il problema della daisy temporale, di quando ci ascoltate in diretta oppure no e vi ripropiniamo sempre tutte le solite iniziative, no, a sto giro ascoltate e digitate lapunta.org e avrete sempre notizie aggiornate su quello che potrete e vorrete fare il fine settimana o no. E non date la colpa a noi. Esatto, lapunta.org, che bello, ci voleva, era tanto che aspettavo una cosa così. Yes. Bene, lo scriviamo anche nei nostri social, ecco. Allora, è finita qui, è finita però la oggi... prima nostra puntata della Brusca. Che bello. Non che ti metto neanche una vera sigla finale, no. Perché te la voglio tenere per la prossima volta. Yeah. Risfumiamo con un Maurizio Costanzo che ci è piaciuto tanto. Cosa e con questa vi salutiamo dagli studi di Radio Wombat in qualche parte in Firenze, forse, chissà, magari trasmettiamo da un altro emisfero. Sì, che è probabile. È molto probabile, perché il Wombat questo può e molto altro. Vi salutiamo, vi abbracciamo, vi mandiamo tanti baci. E vado a dormire. La mia va a dormire, io invece vado al progresso. Vediamo se chi di voi sarà al progresso mi riconosce. Botta di vita. Botta di vita, al regresso. Come sei giovine. Sì. Allora, giovedì prossimo e a qualsiasi altro giorno vogliate, perché ci potete ascoltare quando volete. Arrivedercela. Esatto. Ciao.